24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:21 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, ben ritrovati in diretta fino alle 9. 24 mattino e radio24.it, questa è la nostra mail. Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Beh, i terribili fatti di cronaca di domenica hanno riportato alla luce le polemiche su immigrazione e criminalità. Vi chiediamo, secondo voi più immigrazione significa più criminalità? Ditecelo tranquillamente, cosa ne pensate, la vostra percezione. Poi ne parleremo alle 8:30 con ospiti. Come di consueto, questa è la notizia di cronaca che domina ancora sui giornali, anche se i giornali aprono su altro. E andiamo allora a sfogliarli. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Il protagonista della nostra intervista di oggi è il segretario dei Radicali Italiani Mario Staderini. Staderini, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E allora, qua siamo al suc del mercato, della Camera. Mancano 7 giorni al voto del D-Day. Che fanno i 6 parlamentari eletti nel PD ma radicali alla Camera? Mistero. Il mistero. Ma guardi, io se penso al nostro paese adesso immagino una macchina su una strada spianata in discesa a picco con una macchina che corre veloce e Berlusconi alla guida. Ecco, c'è chi si preoccupa esclusivamente del guidatore e chi si occupa anche delle situazioni che hanno creato questa strada in discesa. Questo un po' è quello che stanno facendo i radicali e credo anche in vista di quello che lei ha chiamato il D-Day, sarà la nostra preoccupazione. Innanzitutto credo che non vada mitizzato il 14 dicembre, perché non, pensate davvero che accadrà qualcosa di storico? Io credo che invece sono proprio le opposizioni della responsabilità a creare il berlusconismo, per cui se c'è un obiettivo che bisogna porsi in vista del dopo 14 dicembre è proprio quello di capire come fare a riconquistare condizioni democratiche al nostro paese e soprattutto quale tipo di riforme. Si parla molto spesso, uniamoci, facciamo una legge elettorale, ma non si dice quale legge elettorale. Ecco, è però, il contributo che stiamo dando. Però lei dice guardiamo sia il guidatore e sia la strada in discesa, poi si offende se dico che è una risposta un po' democristiana, cioè nel senso che non ci dice come votate alla fine, non sarà un, guardi, non sarà un voto cosa, importante, però questa cosa del voto apposta molto spesso noi siamo impopolari come radicali piuttosto che essere antipopolari. Sarebbe impopolare oggi che noi partecipiamo al gioco di chi crede che appunto il 14 dicembre sia la data storica. Noi non facciamo di solito una politica contro, ma la facciamo creando quello che abbiamo di solito creato, quelle sì cose storiche, va bene il divorzio, l'aborto, ma la pena di morte, la mutilazione genitali, i guelfi, la giustizia giusta. Ecco, la verità è che non ci basta a noi radicali mandare a casa Berlusconi, ma ciò non significa che non lo manderemo a casa. Il fatto è che noi lo vogliamo mandare a casa insieme a questi partiti che si rubano finanziamenti, democrazia. Insomma, se si sta a cercare semplicemente di sapere oggi quello che si farà il 14, si perde di vista, a nostro avviso, e forse per questo da una parte i giornali hanno gonfiato parlando di trattativa, facendo interviste a improponibili, a volte deputati dell'altra sponda che dovrebbero aver convinto chi. Marco sì, ecco. C'è uno, Mario Pepe, dice che sto lavorando per conquistare i radicali. E poi anche Ciccioli, che è uno psichiatra, dice attenzione, perché è uno psichiatra, dice non so, forse sta convincendo, magari Pannella ha bisogno di uno psichiatra per cercare di convincerlo su 6 voti radicali, non lo so. Cioè, se c'è un fatto positivo, un contributo che già abbiamo dato in questa situazione e facendo anche un po' appunto quella che lei chiama un'ambiguità, è che se si ricorda fino a 10 giorni fa si parlava di quanto valeva un voto, 200.000 euro, 1 milione di euro, adesso appena è iniziata la storia della pseudo trattativa con i radicali si è parlato di 6 voti, 6 riforme, e devo dire già sarebbe una rivoluzione se i parlamentari votassero non per convenienze partitiche ma per convinzioni politiche, ma la questione è proprio altra ormai, insomma. Oggi Calearo dice in un'intervista al Riformista che si è arrivati a 500.000 euro, cioè questa l'offerta per un voto, per conquistare il voto, non so, una promessa di rielezione, ti diamo 500.000 euro. Questo in Parlamento, le cifre che girano, no, questa dimostrazione che insomma un po' di importanza al voto del 14 ce l'avrà. noi soldi non abbiamo ricevuto offerte, anche come si legge i giornali, io penso che non avrò ancora il posto da sottosegretario. Poi comunque, a parte gli scherzi, Pannella e Mastella hanno in comune solamente le lettere finali del cognome, e chi ascolta lo sa, penso che in pochi possano credere che da parte nostra ci sia il mercimonio. Non l'abbiamo fatto per 50 anni, farlo adesso peraltro a fine impero sarebbe veramente ridicolo. A fine impero, dunque insomma non si sa, il mistero si sa, si mantiene fino all'ultimo, non si sa come voteranno i 6 del PD radicale. Per arrivare a dopo. Non ho capito. È il modo, diciamo, per pensare già oggi a quello che serve per il dopo. Ah, va bene. Pannella dice che durante anche la votazione vedremo come va e decideremo fino all'ultimo. Ma sì, è anche un modo per dare maggior valore al testo che sarà presentato nella mozione. Ci saranno delle parti più interessanti, parti che magari non sono presentabili. Sennò si dà per scontato e almeno si discuteranno delle motivazioni del perché uno voterà contro il governo Berlusconi o voterà diversamente. Questo vale per noi, ma vale per tutti. Ecco, penso che sia un contributo proprio per il dibattito, in modo che i cittadini non stiano là solo a fare il tifo, ma capiscano perché uno vota in un modo e quali sono le prospettive che vede per il futuro. No, ma capisco, se oggi il Corriere fa un'intera pagina parlando del caso Grassano, che è un onorevole finora abbastanza sconosciuto ma diventa famoso, perché non far pesare anche i 6 voti dei radicali? Cioè, io capisco tutto. La ringrazio, Staderini. Grazie a lei. Buona giornata, Mario Staderini, segretario dei Radicali Italiani. Mancano 7 giorni al voto di fiducia. E che dire, noi parliamo dopo la pubblicità, il meteo nel nostro sondaggio, delle vicende di cronaca, Lamezia e soprattutto la scomparsa ieri a Gambirasio, con le novità clamorose, forse il fermo dovuto... pare a un abbaglio clamoroso di un'intercettazione letta male di questo cittadino marocchino che dovrebbe essere invece oggi liberato, ma insomma queste due cronache hanno portato ancora alla ribalta il tema, il legame, ed è questo che vi chiediamo nel nostro sondaggio, se secondo voi ci sia, tra immigrazione e criminalità, perché il dibattito si è riaperto su queste due tematiche. Secondo voi più immigrazione vuol dire più criminalità? Questo è il tema della nostra domanda. Votate su radio24.it oppure 800 24 0024, tra poco. Alle 8:32 minuti, eccoci qua, parliamo degli ultimi due fatti terribili di cronaca di domenica, o meglio uno di domenica, Lamezia Terme, con l'uccisione di 7 ciclisti travolti da un cittadino marocchino che era alla guida di una macchina e era in stato di sotto effetto di stupefacenti, e poi la vicenda che ha portato al fermo, un fermo che ha degli sviluppi abbastanza clamorosi, di un cittadino marocchino per la scomparsa di Yara Gambirasio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Quello che vi chiediamo nel nostro sondaggio, così date il vostro parere di percezione, quello che pensate, se secondo voi un maggiore tasso di immigrazione comporta anche un rischio di maggiore tasso di criminalità. Su questo ci interroghiamo molto pacatamente, perché questi due fatti di cronaca hanno portato proprio alla rinascere di questo dibattito. Io voglio partire da quello che ha detto ieri il cardinal Dionigi Tettamanzi, arcivescovo di Milano. Oggi è la festa di Milano, il patrono di Milano, Sant'Ambrogio. Che cosa ha detto, partendo proprio e prendendo spunto da questi due fatti di cronaca? Prego per le vittime di queste e di tutte le violenze. Prego inoltre perché non si sovrapponga genericamente a tutti gli immigrati la categoria della delinquenza. Ogni persona di origine italiana o straniera deve essere sempre giudicata singolarmente per quella che è. Ogni persona va giudicata singolarmente per quello che è, cioè immigrato non deve essere uguale a criminale. Una frase abbastanza ovvia, scrive oggi Adriano Sofri su Repubblica. Eppure ieri, per esempio, Luigi Manconi sull'Unità scrive: quando gli autori di reato sono stranieri, immancabilmente il tratto della nazionalità o della confessione religiosa emerge con brutalità, a tracciare in maniera indelebile la fisionomia di un altro, irreparabilmente diverso e dunque più agevolmente criminalizzabile. Saluto il professor Manconi, buongiorno. Luigi Manconi. A voi. Così come voglio salutare il presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano, buongiorno presidente della Lega. Buongiorno a voi. E Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera, che sta seguendo questa vicenda. Marco, buongiorno. Buongiorno a voi. E intanto partirei proprio dalle novità. Oggi apprendiamo dai giornali, anche dal Corriere della Sera, che sarebbe un clamoroso abbaglio alla luce del fermo di questo cittadino marocchino nel caso di Yara Gambirasio, vale a dire l'intercettazione che ieri ho citato, nella quale lui avrebbe detto al telefono: Allah mi perdoni, non ho ucciso nessuno. In realtà, letta in modo diverso, suona così: stava telefonando a una persona che non gli rispondeva e dunque si è arrabbiato dicendo: Dio mio, ma cosa ti ho fatto di male? Cioè imprecando perché questa persona non rispondeva al telefono. E, Marco, questa è la vicenda. Che succederà oggi? Presumibilmente verrà scarcerato. Al 90% Mohamed Fikri dovrebbe essere scarcerato. È successa una cosa, diciamo, abbastanza singolare dal punto di vista giudiziario, ma che in realtà accade sovente. Praticamente il magistrato ha chiesto la conferma del fermo di polizia, dicendo che venerdì pomeriggio alle ore 15, quando è stato emesso, c'erano tutti gli elementi per rendere valido ed efficace. Sì. Tuttavia ha detto due giorni dopo, fondamentalmente, ha detto: nonostante questo, dopo aver assistito all'interrogatorio fatto dal giudice per le indagini preliminari, nonostante questo, ha dato un parere. Non è che non ha chiesto l'arresto, ha dato un parere non vincolante, ma del quale il GIP sicuramente terrà conto. Si è limitato a dire: nonostante questo, nonostante sia convinto della validità del fermo emesso venerdì, non ci sono elementi per un'ordinanza di custodia. Quindi vuol dire non ci sono elementi, vuol dire che non è una persona, è una persona che comunque rimane attenzionata, mettiamola così. In un certo senso, se vogliamo, rimane in una sorta di limbo giuridico. Perfetto. Sicuramente da oggi pomeriggio Mohamed Fikri sarà un uomo libero, cioè praticamente sarà indagato a piede libero per sequestro di persona e omicidio volontario. È quasi una contraddizione in termine, perché in genere quando uno è indagato per reati così gravi sta in carcere, ma è una questione, diciamo che insomma è una... Il depennamento delle sue accuse a questo punto è soltanto una mera questione burocratica, ecco. Certo. Io, professor Manconi, lei ha firmato ieri questo editoriale a pagina 2 dell'Unità. A me pare però di poter dire che, come scrive oggi Michele Serra nella sua amaca di Repubblica, che invito tutti a leggere, cioè in fondo che cosa si sono visti lì a Brembate? Qualche striscione, cioè due o tre persone, qualche scalmanato, qualcuno che ha gridato occhio per occhio, qualcun altro via i marocchini, ma un paio di striscioni. Ma mi pare che la comunità stessa e il presidente della Repubblica Napolitano ha elogiato lo spirito con cui il primo cittadino di Brembate sta gestendo questa vicenda. Cioè, le chiedo, non è un'esagerazione anche dei media su quello che sono state 3-4 voci fuori dal coro, in realtà non ci sono state di grandi insomma, caccia verso l'altro, che lei definisce così? Sono d'accordo, nel senso che certamente la comunità devo dire con piacere il primo cittadino hanno mantenuto un notevole equilibrio e non ci sono state manifestazioni di aggressività. Dunque, nel caso specifico, fortunatamente si sono tenuti i nervi saldi. Quello che io dicevo e che, ahimè, sono costretto a confermare è che esiste quella tendenza, ovvero ogni volta che un atto criminale può essere attribuito a uno straniero, scatta un elemento di emotività che può portare a quel fenomeno, che è un fenomeno assai connaturato ai comportamenti sociali, ovvero attribuire a un'intera comunità la singola responsabilità penale. È indubbio che così sia accaduto sempre, è indubbio che così accada. Proprio perché non si tratta di una occasionale manifestazione di aggressività, bensì di una fatale tendenza a vedere nell'altro un nemico. Qua appunto la responsabilità del sistema dei media è una responsabilità enorme. noi dovremmo desiderare, dovremmo lavorare perché un atto criminale sia classificato ordinariamente come cronaca criminale, senza che il tratto eventualmente presente di connotazione etnica sia valorizzato o esaltato o enfatizzato come è accaduto, cioè, e accade quotidianamente. Cioè, secondo lei non bisognerebbe neanche dire, o non è, è superfluo dire la nazionalità di una, di un, di un'eventuale persona indagata o coinvolta in un fatto di cronaca? È un fatto. Questa è stata la proposta fatta dal mio antico professore del liceo quando a essere evidenziata era la identità di una regione italiana, cioè sardo autore di un crimine. Più recentemente Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, ha fatto un'analoga proposta riferendosi invece alle nazionalità. Per essere concreti, è evidente che è assai difficile censurare e rimuovere completamente l'origine nazionale e persino in qualche caso regionale dell'autore di un crimine, ma certamente quello che accade è l'esatto contrario, è il fatto che quella identità venga esaltata e diventi il tratto che accomuna un'intera popolazione, quindi dal marocchino responsabile di un reato si passa agevolmente all'intera comunità marocchina guardata con sospetto. E però io vorrei dal presidente della provincia di Bergamo, Ettore Pirovano della Lega, per esempio sottoporre quello che oggi è il titolo di Libero: immigrato, un incidente su cinque, sono dati e non razzismi. In questo caso si parla della strage dei ciclisti e dati peraltro dell'associazione di amici della polizia stradale, quindi Giordano Biserni, che è anche spesso nostro ospite, dice è un dato di fatto, cioè laddove ci sono incidenti stradali almeno il 20% degli incidenti coinvolgono stranieri. È un discorso, presidente, secondo lei pericoloso questo, o è un discorso che è legittimo fare? È un discorso concreto. Io proprio sabato mattina, molto presto, verso le 6:30, stavo andando in stazione a Milano, partendo da casa mia, e c'è stato un incidente mortale che ha visto morire un egiziano per colpa di un altro egiziano che è uscito da un distributore senza dare la precedenza. È un caso. Poveretto quel Cristo, quel povero Cristo è morto. E vorrei però ricordare che innanzitutto faccio i complimenti al sindaco di Brembate per come sta gestendo la cosa. E i manifesti erano due pezzi di carta scritti con un pennarello, con errori anche di grammatica, attaccati a una cancellata, e sono stati rigettati da tutta la popolazione di Brembate, che credo sarebbe molto più interocita se l'assassino, l'eventuale assassino, e spero che sia ancora così, ammesso che ci sia qualche probabilità che questa ragazza sia viva, se il responsabile fosse bergamasco o italiano, credo che sarebbero ancora più arrabbiati. Ma perché dice così, presidente? Cioè non è la stessa cosa, non sarebbe una cosa atroce indipendentemente? È atroce comunque, ma per dirvi che la gente nostra non ha assolutamente alcun senso di razzismo nei confronti di nessuno, tanto è vero che gli stranieri che sono lì e che lavorano sono perfettamente integrati, vanno all'asilo, vanno a scuola, ricevono i contributi. È falso dire che ci sia questa prevenzione nelle nostre parti, tanto è vero che i sindaci perseguono i nostri concittadini che affittano case in nero agli stranieri. Quindi è veramente falso. Ma io vorrei ricordare che forse gli episodi veri di violenza e di razzismo sono avvenuti molto più a sud della provincia di Bergamo, con stragi mafiose, eccetera. Quindi, però vorrei anche ricordare un'altra cosa, che su circa 1000 episodi in un anno di violenza nei confronti simili a quelli a cui siamo stati abituati in queste due ultime occasioni, a Vetrana e Brembate, su circa 1040, 399 sono causati da stranieri. Allora, se una popolazione che oscilla tra il 6 e il 7% della popolazione italiana causa il 40%, è responsabile del 40% di questi episodi, c'è da preoccuparsi. No, ma questo infatti è il tema da cui voglio ripartire dopo le informazioni sul traffico del sociologo Manconi, perché lui proprio parlava dei dati, cioè la domanda che tutti ci facciamo è più immigrazione uguale, anche dati alla mano, più criminalità? Poi bisogna distinguere tra immigrazione. Sono i clandestini. I clandestini, infatti, immigrazione regolare, immigrazione irregolare. Ma da qui intanto il 65% di voi votando su un sondaggio dice sì, un maggiore tasso di immigrazione comporta un maggiore tasso di criminalità. Ma da qui ripartiamo dopo le informazioni sul traffico. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Vorrei sentire Amedeo da Milano che ne pensa. Buongiorno. Sì, buongiorno, io vi seguo sempre, chiamo per la prima volta. Salve. Dica. Volevo dire che vabbè, il sondaggio, nel senso, è vero che l'immigrazione porta più criminalità, ci mancherebbe, nel senso mi sembra idiota dire il contrario. Forse l'immigrazione irregolare, la clandestinità, comunque. No, l'immigrazione peccato gestita in maniera disastrosa come si sta gestendo in Italia, nel senso, perché? Perché sono divise in due fazioni politiche questa immigrazione, cioè da una parte si tende a strumentalizzarla probabilmente per un'ideologia politica che vuole un'Italia multietnica. Sì. E dall'altra? Dall'altra invece, comunque sia, a tanta gente fa comodo che ci siano immigrati che lavorino più che altro a basso costo sul territorio. No, ma Amedeo, io intanto la ringrazio. Professor Manconi, le chiedo, perché lei se l'è posto questo problema, gli immigrati delinquono più degli italiani? Questa domanda le faccio. E lei dice falso, soprattutto quelli irregolari. Quelli irregolari, falsa questa. Ci può dare due dati? Sì, certamente. I dati sono certi, ormai stabilizzati da anni e inequivocabili. Va divisa la popolazione immigrata, appunto, lo avete già detto prima, in due grandi gruppi. Per quanto riguarda gli immigrati regolari, ripeto, regolari, il tasso di criminalità è perfettamente uguale a quello registrato tra i cittadini italiani. E all'interno della fascia d'età media, 24-55 anni, il tasso di criminalità tra gli immigrati regolari è inferiore al tasso di criminalità tra gli italiani di quella stessa fascia di età. Il problema sono la clandestinità, certo. Il discorso cambia completamente quando consideriamo gli immigrati irregolari. Qui il tasso di criminalità è notevolmente, sottolineo, notevolmente più elevato e evidentemente le spiegazioni sono assai semplici. Gli immigrati irregolari, per un verso, vivono in una condizione di marginalità, di clandestinità e dunque all'interno di reti sociali dove è forte la presenza, certo, delle organizzazioni criminali e dove l'attività delinquenziale è spesso la principale forma di anche di sostenimento, diciamo. Ma così, infatti io la principale fonte di reddito su questo. Quindi, presidente Pirovano, mi scusi Manconi, la prego, risposta della politica qual è su questo dato della forte propensione alla criminalità da parte degli immigrati irregolari? La risposta della Lega qual è? Non facciamone entrare, mandiamoli a casa loro, mi dica Pirovano. Coloro che entrano, molto spesso coloro che entrano in modo irregolare e restano in modo irregolare sul territorio nazionale, non sono venuti cercando un lavoro, molto spesso, e quindi è difficile fare una selezione in questo caso, e anche il dire tutti quelli che arrivano qui prima o poi bisogna regolarizzarli è sbagliato, perché andremo a regolarizzare persone che non hanno intenzione né di lavorare né tantomeno di integrarsi. Vorrei però anche ricordare che per quanto riguarda la immigrazione regolare, i numeri che ha detto Manconi sono spalmati uniformemente sul territorio nazionale, quando tutti sanno benissimo che la grande concentrazione sia di regolari che di irregolari è soprattutto nel nord Italia, dove è più facile sia delinquere che trovare lavoro. Io, Marco Imarisio, tu che sei stato a Brembate, sei in questi giorni a Brembate, noti, cioè sono veramente due o tre cartelloni comparsi con la complicità e l'errore, secondo me, dei mezzi di informazione che li hanno voluti sottolineare, però è un fatto di cronaca, oppure c'è una diffusa sensazione anche da parte di qualcuno di rabbia anche un po' covata? Ma insomma, io non mi ricordo in quell'articolo, l'ho scritto, ho girato, Brembate non è grandissima, pur non avendo il dono dell'ubiquità, li ho contati questi cartelloni, ve ne erano alcuni esibiti da personaggi insomma che volevano apparire in strada, cioè, erano altri alle finestre, stiamo parlando di 10-11 cartelloni, credo di aver quantificato così. Non possiamo nasconderci che, almeno stando a Brembate da ormai quasi una settimana, e senza avere la pretesa di conoscere a fondo una comunità, non possiamo nasconderci che nei bar, nei crocicchi, c'è un sentire, ci sono frasi insomma, uscite dal senno che estremizzano certi concetti. Quello che io ho cercato, e a mio avviso, lo dico anche al presidente Pirovano, secondo me tutti i media hanno cercato in questo caso di raccontare una piccola comunità che si sente violata da un evento che ha fatto saltare uno dei suoi codici, cioè una ragazzina in Brembate è un posto dove una ragazza di 13 anni può tornare a casa da sola la sera, però Brembate è anche il posto dove una ragazza di 13 anni è scomparsa tornando a casa la sera. Questa ferita, questo, come dire, scardinare dei codici di convivenza, di un codice di convivenza basato sulla sicurezza, è chiaro. Ha sconvolto una comunità, ma certo, una comunità che non è abituata, nessuna comunità è abituata a questo, ma certo non a maggior ragione una comunità come quella di Brembate. Questo lo posso capire. Io chiedo a due ascoltatori se sono rapidi, per cortesia. Valeria da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Guardi, fermo restando la disperazione di questa famiglia per la tragedia che è successa. La sensazione che ho io, come tante persone della mia età, io ho 38 anni, vivo a Roma, è che manchi fondamentalmente il controllo, manchi un controllo sul territorio che permette appunto di assicurare la sicurezza, e questo esula dal problema dell'immigrazione. Manca una questione di controllo, quindi non c'entra una questione di immigrazione, ma una questione di controllo su tutti i canali. Sì, è questo il problema. La ringrazio, Valeria. Voglio andare a Como da Mohammed. Mohammed, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora io intervengo solo per dire che a me mi dispiace per queste 8 persone che sono morti, io sono marocchino e mi sento anche un pochino in colpa, però voglio anche attirare l'attenzione. Perché si sente in colpa se un suo concittadino ha ucciso 7 persone? Perché? Perché si deve sentire in colpa? Non lo so, non mi sento in colpa se in Italia c'è la mafia, non sono mafioso, sa? Quindi non si deve sentire in colpa. Non lo so, magari colpa, magari un dispiacere. Dispiacere, una cosa, sì. Sì, probabilmente sì, però voglio solo dire che paradossalmente l'immigrazione è vero che provoca criminalità, perché anche il 30% delle donne stuprate sono donne straniere e sono stuprate da uomini italiani, quindi questo dato non viene mai alla luce, non si parla, quindi non si viene a conoscere anche questo l'atto della immigrazione. Lei dice, cioè, insomma, c'è questo modo di porre la questione in termini sbagliati. Io con lei concludo e voglio ringraziare tutti, da Luigi Manconi al presidente della provincia di Bergamo della Lega Ettore Pirovano e a Marco Imarisio, inviato del Corriere della Sera. Ha detto che il 65% di voi, anzi 66, dice più immigrati vuol dire più rischio di maggiore criminalità. Questo è il nostro sondaggio che potete ancora votare. Voglio ringraziare come di consueto Antonella Migliaccio, Alessandro Longoni in redazione e Peter Bescapè in regia, e dire che domani 8 dicembre, festa, noi andiamo regolarmente in onda. Si è capito? Linea a Oscar Giannino. A domattina.